querevo. Ma il cuore è una radio che va. E se una radio è libera, ma libera veramente. Ascolta la radio. E radio e sessioni contagiano e con libere informazioni. Anni suonati, storia semiseria delle radio libere. Bentrovati a 40 anni suonati, storia semiseria delle radio libere, il programma che vi ricostruisce in ordine sparso i 40 anni delle radio libere indipendenti. Questa puntata è particolarmente densa di contenuti e spunti. Cominceremo con la testimonianza di Andrea Gozza, storico speaker e DJ, che ci racconterà dell'onda esplosiva delle radio libere sul finire degli anni 70 e di come si ovviava alla costruzione della strumentazione necessaria. Sentiremo poi Ivano Cavalieri, che ci racconterà la storia di Radio Gruppo e di come, attraverso le radio libere, ha costruito una professione lavorativa. Cavalieri ci racconterà anche l'evoluzione della tecnologia connessa alle radio per evitare che si ripetesse quanto accaduto nel 1983, quando il pretore chiuse tutte le radio private di Bologna perché interferivano con le comunicazioni dell'aeroporto. Ascolteremo anche una canzone di Vasco Rossi che parla proprio di questo. Dall'archivio oggi ascolteremo un rap autorealizzato per promuovere una campagna di sottoscrizione a Radio Città 103 nel 2001, mentre Alfredo Pasquali, presidente della cooperativa L'Informazione Nuova, ci racconterà un aneddoto sugli incidenti che potevano capitare in programmi troppo noiosi. Infine, per lo spazio dedicato al concerto storico, l'indimenticabile live dei Clash in Piazza Maggiore a Bologna nel 1980. Buon ascolto. Bastava averci anche delle apparecchiature semplici, ad esempio la prima Radio Milano International cominciò con un trasmettitore militare comprato al mercato delle cose americane a Livorno, e lì si poteva trovare questo trasmettitore che si chiamava Collins, che era un trasmettitore della Seconda Guerra Mondiale a valvole, che era multibanda, quindi ti fornivano una cassettina con i quarzi e tu sceglievi su che frequenza farlo trasmettere. L'antenna te la o autocostruivi o comunque c'era in città, c'erano cosiddetti CB, radioamatori, che erano, diciamo, esperti di queste cose, che ti davano una mano, poi a volte ti davano anche delle dritte sbagliate. Diciamo che lo smanettone che oggi lavora sul computer, su Android, all'epoca lavorava sulla centralina della TV condominiale, perché ad esempio la centralina condominiale della TV è un amplificatore di segnale che tu puoi usare per amplificare un segnale in FM. Addirittura c'era una radio da Borsari Sarti, aveva due negozi, uno in piazza Cavour dove vendeva i dischi e un altro all'angolo con piazza Calderini, come si chiama, dove c'era il cinema Settebello. C'era anche lì un negozio che aveva strumenti musicali e hi-fi. Nella sala hi-fi loro avevano elaborato un trasmettitore per cuffie senza fili, uno probabilmente anche dei primi, che era in FM, e con quello Borsari Sarti mandava musica Ostia attraverso l'FM e una serie di negozi del circondariato, perché chiaramente era una roba limitata, si sintonizzavano perché dicevano: oh, questa è la radio di Borsari, cioè, e ogni tanto c'era il commesso che andava lì con un microfono e diceva: salutiamo la salumeria Gianni dietro, che per l'ottimo panino, la mortadella che oggi ci ha fornito, so, per dire, questo era, cioè arrivava a queste dimensioni, quindi il fenomeno era in espansione, era dilagante. Noi nel 77 ci trovavamo a mettere in piedi una radio e quindi ci volevano i dischi, i giradischi, i registratori a bobine per il nastrone alla notte. I dischi costavano, i giradischi costavano. Oggi, se avessimo avuto un computer come oggi nel 77, fare la radio sarebbe stata una cosa estremamente semplice. Oggi lo possono fare tutti e quindi è il classico ago nel pagliaio, perché parliamo delle web radio ad esempio. Però all'epoca il problema era quello: come funzionava? Che loro mettono sulla radio, uno portava il giradischi, il mixer era da comprare, c'era quello che aveva più soldi che metteva i soldi per il mixer, e poi si andava in cantina dalla zia a vedere se c'aveva dei dischi e si trovavano con dei 45 giri degli anni 60, cioè si andava a raccattare in giro i dischi per poter cominciare a fare una programmazione. Quindi in questo humus poi sono nate anche le radio come la nostra, che ancora oggi è in pista. Sicuramente una città come Bologna, per le sue attività ancora oggi, diciamo, è tra le città che ha forse ancora ad esempio delle emittenti storiche che reggono, no? Però io penso, cioè, in ogni paese nasceva una radio. Cioè noi, tu andavi a Crevalcore, c'era Radio Etere, Radio Etere di Crevalcore, andavi a Castel San Pietro Terme, ce n'erano già altre due. Ad esempio, una delle prime radio di Bologna è stata Radio Bologna Notizie, dove ci ha trasmesso anche Red Ronnie, per dirne uno, no? C'era Teleradio Bologna, che era molto diffusa e ascoltata. Ad esempio, c'erano radio come Radio Eco, Radio Record, Teleradio Spazio, Super Radio, Radio 2001, Modulazione Special. C'erano le radio terribili da un punto di vista anche della scuola. Modulazione Special era una radio che faceva dediche richieste dalla mattina alla sera con la peggiore musica del mercato. Poi c'erano ad esempio le radio della provincia, ho detto prima quella di Crevalcore, ma c'era Radio Tombo di Pianoro, Onda Radio di Bazzano, che è stata una radio che per anni ha retto, Radio Budrio e Radio Venere di Monzuno, che c'è ancora, per dire, Punto Radio di Zocca, parlo della Punto Radio di Zocca, la prima Punto Radio, che è stato meta dei nostri pellegrinaggi quando eravamo ragazzi, che prendevamo con la 850 di un amico, andavamo su a Zocca il sabato sera per andare a far visita a questo che era il mito di radio, perché sicuramente rispetto alle altre radio libere commerciali era, a parte la radio Vasco Rossi che ancora non era nessuno, quindi non è che adesso c'era il mito di Vasco, non esisteva, però Vasco Rossi era uno che ci trasmetteva. Oggi devo dire che sulla radio sicuramente c'è meno passione rispetto a quella di 40 anni fa. 40 anni fa era una cosa nuova, era un modo nuovo di comunicare, non c'era internet, cioè, quindi stiamo in uno scenario completamente diverso, era l'internet dell'epoca. Cradle me, or cradle you, I'll win your heart with a woo-woo. Pulling shapes just for your eyes. Sew with toothpaste, kisses and lines. I'll be yours and you'll be. Lay with me, I'll lay with you. We'll do the things that lovers do. Put the stars in our eyes. And with heart-shaped bruises and late-night kisses divine. Thank you. oggi siamo in collegamento telefonico in compagnia di Ivano Cavalieri, che saluto. Buongiorno Ivano. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Per prima cosa ti chiedo, come è cominciata la tua avventura nelle radio, appunto nelle radio libere? La mia avventura nelle radio libere, come appunto erano definite allora, agli albori, è iniziata nel 1977-78 con il tentativo, riuscito poi appunto nel 78, di mettere su, come si diceva appunto allora, una piccola radio libera a Monte San Pietro, che è il comune qui dove io sono nato, ho sempre vissuto in provincia di Bologna. Si chiamava Radio Gruppo, era una piccolissima emittente nata appunto da volontà di un gruppo di ragazzi molto giovani allora, che trasmetteva da una collina appunto qui di Monte San Pietro, con una copertura, se vogliamo, anche abbastanza limitata, progetto sul quale poi abbiamo costruito anche una cooperativa che è rimasta in vita per un po' di anni. Che peculiarità aveva, insomma, se ne aveva rispetto ad altre radio nate in quegli anni? Diciamo che era una radio scalcagnata, purtroppo, e che non è mai riuscita a esplodere, a avere, come dire, successo, un largo successo, perché appunto era basata molto sul volontariato, sull'iniziativa più o meno spontanea di un gruppo di ragazzi, ed era comunque una radio che era abbastanza politicizzata, perché comunque questo gruppo di ragazzi, che poi a un certo punto se ne sono contati anche parecchi, c'era stato un gruppo di una quarantina di persone, direi così a memoria, ed era una parte di queste persone, diciamo, erano comunque persone abbastanza politicizzate, altre un po' meno, per cui insomma c'era anche un certo, nel primo periodo diciamo c'è stato un certo scontro all'interno del gruppo su che tipo di radio fare, ma poi si è indirizzata appunto su una sorta di radio di informazione, allora si usava dire di controinformazione, e è stata abbastanza appunto indirizzata su questa linea, insomma. Poi qual è stato il destino di questa radio, com'è finita, insomma? Ah, è finita che all'inizio degli anni Ottanta si è trasferita a Casalecchio, in via Canale, e ha trasmesso per alcuni anni da lì, finché pian piano, diciamo, la disponibilità di questo gruppo di persone è venuta meno, e a quel punto si è appunto, diciamo, è stata incorporata in qualche modo in Radio Città 103. Abbiamo già avuto modo, insomma, nel corso della trasmissione di raccontare il fatto che in quegli anni, anche dal punto di vista tecnico, erano un po' esperimenti più ingegneristici. Tu ne hai fatto, sì, proprio una professione. Raccontaci com'è avvenuto. Io a quei tempi appunto ero molto giovane e mi sono trovato in un certo periodo disoccupato, e quindi siccome io ho sempre avuto la passione dell'elettronica, avendo conoscenze nel mondo delle radio, in particolare conoscevo alcune aziende che costruivano apparati per le radio libere, una di queste era Perry, l'Acron del signor Perry di Bologna, e quindi un bel giorno assieme a due amici abbiamo pensato di mettere su un'aziendina per fare montaggi elettronici eccetera. Andammo a trovare il signor Perry, il quale ci diede da fare, iniziare a fare un po' di lavori, e da lì è partito un'attività artigianale, diciamo così, che ancora oggi sto portando avanti. E in particolare tu ti occupi di alta frequenza? Sì, io lavoro in collaborazione con un'azienda di Bologna che costruisce tutti gli apparati per il settore broadcasting, quindi in particolare alta frequenza. Com'è cambiato nel corso di questi anni, anche dal punto di vista tecnologico, appunto, come sono cambiate le apparecchiature per le radio, se sono cambiate? Sì, sì, beh, sono molto cambiate, basta ricordare l'esperienza quando un pretore fece chiudere tutte le radio della provincia di Bologna e di parte di quella di Modena perché si disturbava l'aeroporto. Allora, per capirci, c'erano trasmettitori che ne combinavano di tutti i colori. Da allora ovviamente i passi in avanti sono stati molti, e in particolare negli ultimi anni si va sempre più verso la digitalizzazione anche della trasmissione radio. Se tu non avessi, come dire, avuto modo di fare radio anche non solo appunto per il lavoro che fai adesso, ma poi avresti secondo te fatto questo lavoro, come dire, era un'opportunità che si creava in quegli anni? Sì, sì, sì, sicuramente. Non so, forse avrei comunque lavorato nel settore dell'elettronica, credo, però sicuramente se non ci fosse stato il boom in quegli anni delle radio private, e quindi anche il boom di aziende in Italia che si erano messe a costruire apparati per le radio, probabilmente non avrei mai fatto esattamente questo tipo di lavoro e non avrei avuto queste possibilità, sicuramente. A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti i punti radio delle emittenti private posti lungo la dorsale. scriva. L'aneddoto. Anni 90, Radio Città 103 pensa allora di organizzare una trasmissione dedicata alle Pantere Grigie, ovvero sia tutte le tematiche dei pensionati e le tante riforme sulla previdenza che allora col governo Dini cominciavano a infierire sulle persone che hanno lavorato una vita. A tenere questa trasmissione è un anziano, valoroso partigiano, impegnatissimo su questo versante. La trasmissione però è molto approfondita, molto così coscienziosa, non è assolutamente divertente. E quindi succede che il nostro conduttore talmente si annoia sulla stessa trasmissione che si addormenta mentre trasmette e comincia a russare, e in quel momento la regia era distratta, è impegnata in altre faccendate, e quindi per un 5 minuti è andato in russare del relatore della propria trasmissione. Credo che questo sia il massimo del crollo dell'audience, o forse del picco dello share. Il concerto 1980, i Clash in Piazza Maggiore a Bologna. Electrical sugar, better leave town.